GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. La protesta dei giovani agricoltori, una settantina di trattori in piazza Udine contro le politiche europee, la mancanza di aiuti, lasciateci coltivare, dicono, come il clima ci consente di fare. Electrolux in sciopero contro gli esuberi in alcuni reparti, stop di 5 ore nel pomeriggio, un tavolo, regione sindacati. A San Vito presentata la carta di Lorenzo nel nome del giovane studente morto in fabbrica, un piano nazionale formativo e informativo sulla sicurezza. Psicologi e codice rosso, un'assistenza supplementare per le donne che denunciano violenze, la firma di un protocollo a Pordenone. Contratto di fiume per lo Iudrio, imboccata la fase decisiva, primavera prevista la sigla finale. Trieste, la pista ciclabile in Viale d'Annunzio, confronto in commissione comunale, sono i ciclisti a dire no. Gorizia, il nuovo progetto di promozione turistica con gli itinerari culturali, si parte il mese prossimo. Basket, la domenica no delle regionali, tutte sconfitte, i commenti dei protagonisti. Sono le 12, quasi 32 minuti, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. È arrivata anche in regione la protesta dei cosiddetti giovani agricoltori, una mobilitazione nazionale contro lo strapotere delle banche, contro una classe politica definita illegittima anche a livello europeo e contro i sindacati considerati complici del disastro economico che investe il settore. Una protesta che a Udine ha portato in piazza circa 70 trattori per un corteo fino in piazza Primo Maggio. Il servizio è pronto, scusate, possiamo dunque andare con il reportage sulla mattinata. Hanno ancora i pneumatici sporchi della terra dei campi, molti dei circa 70 trattori che dallo stadio di Udine hanno sfilato fino a piazza Primo Maggio. Movimento spontaneo ed autoconvocatosi pochi giorni fa tra le portavoci Ortensia Morocutti, che gestisce un agriturismo a San Vito di Fagagna. Perché ho visto questi giovani di 20 anni, che hanno questo desiderio, in un momento che si parla di follower, di Instagram, tutte queste novità, questi stanno ancora lavorando la terra come i nostri vecchi, portando avanti un sistema che è una tradizione e non si può mollare, perché questa tradizione va portata avanti. Intervistiamo Mauro Franceschinis di Mortegliano davanti al cartello Giovani agricoltori senza futuro. La grandine che è venuta giù come palle da baseball, a noi ci ha creato personalmente nelle strutture dei capannoni oltre 100.000 euro di danno. E siamo ancora in balia degli eventi, stiamo ancora aspettando i soldi dalle assicurazioni. Le politiche europee per quanto riguarda il Green Deal non ci lasciano coltivare i nostri terreni come noi meglio crediamo, come la terra e il clima ci dà la possibilità di coltivare. Noi siamo obbligati a seguire determinate rotazioni che non in tutte le regioni, come ben sappiamo, il clima lo può permettere. I nostri prodotti non vengono valorizzati e tutti gli aiuti che ci vogliono dare sono minimi. Ringraziano le forze dell'ordine per aver consentito lo svolgersi della manifestazione, gli agricoltori, ma si sentono traditi dalle istituzioni, da quelle locali a quelle europee. Presente il solo Mario Pittoni della Lega. Abbiamo organizzato questa protesta pacificamente e quello che ci dispiace di più è che la politica è assente per fare sostegno ai giovani, per incoraggiarli al mondo del lavoro. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sciopero di almeno 3 ore per ogni turno oggi all'Electrolux di Porcia e negli uffici del gruppo a Pordenone, lo hanno proclamato i sindacati. Dopo l'annuncio degli esuberi, di cui 70 impiegati, quasi 100 operai ora in contratto di solidarietà, che è arrivato nelle scorse settimane. Lo sciopero e la sua durata cambiano a seconda dei reparti e dei carichi di lavoro. In alcuni reparti, per esempio, stamani la produzione si è fermata per 5 ore. Nel pomeriggio è in programma un tavolo tra parti sociali e regione che dovrebbe precedere un incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy. È stata redatta e vede la luce nel nome di Lorenzo Parelli, 18enne morto 2 anni fa a Pavia di Udine in un incidente in fabbrica. Durante uno stage, la piattaforma nazionale per la sicurezza sul lavoro. Il documento è stato presentato questa mattina a San Vito al Tagliamento. La formazione e prevenzione, la sicurezza sul lavoro è una responsabilità sociale e collettiva, principi inseriti nella Carta di Lorenzo. Dalla morte di Lorenzo Parelli qualcosa è stato fatto, ma bisogna continuare, ha detto il presidente della Regione Fedriga. A 2 anni dalla tragedia che costò la vita al 18enne studente al suo ultimo giorno di stage in uno stabilimento di Pavia di Udine, la Carta di Lorenzo, il documento scritto dalla famiglia con la Regione, diventa una piattaforma nazionale per sensibilizzare sui rischi che corrono gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza scuola-lavoro. La piattaforma, presentata alla LEF di San Vito al Tagliamento, si inserisce nel progetto A Scuola in Sicurezza, che coinvolge Regione, INAIL, Confindustria Alto Adriatico e Confindustria Udine, per promuovere attività di formazione ma anche di informazione in materia di sicurezza nei licei e negli istituti superiori. Maria Elena Dentesano e Dino Parelli, genitori di Lorenzo, erano presenti insieme ai familiari di Giuliano De Seta, il giovane deceduto durante uno stage aziendale a Noventa di Piave, e con loro in sala anche alcuni giovani studenti del liceo Le Filandieri di San Vito al Tagliamento e dell'istituto Bearzi di Udine. Un documento e una piattaforma sottoscritti e sostenuti dal ministro del lavoro Calderone e dal ministro dell'istruzione Valditara. San Vito al Tagliamento, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Parliamo ora di violenza di genere. Sull'esempio di altre regioni, anche in Friuli Venezia Giulia, un team di psicologi assisterà le donne nel momento della denuncia e nel percorso successivo. Oggi la firma di un protocollo a Pordenone. C'è la richiesta di una nuova modalità delle attività di psicologia in codice rosso, ovvero la pronta disponibilità soprattutto per l'escussione dei minori vittime di violenza. Un protocollo siglato in prefettura a Pordenone tra Procura della Repubblica e Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale punta a rispondere a questa nuova esigenza, mettendo in campo psicologi specializzati per affiancare come ausiliari di polizia giudiziaria la magistratura e le forze dell'ordine nell'ascolto di soggetti fragili e persone offese nel momento della loro presa in carico sin dall'inizio delle indagini. Per gli psicologi si tratta di un impegno di grande rilevanza, perché quello che serve in questi casi è la tempestività, forte intanto l'aumento di casi emersi nell'addestrataglamento grazie alla legge Codice Rosso, osserva il procuratore della Repubblica di Pordenone facente funzioni Maria Grazia Zaina. Maltrattamenti in famiglia, lesioni in ambito familiare, aggressioni verbali, stalking e purtroppo anche violenze sessuali. I numeri sono importanti, rileva il magistrato, rimarcando che in procura ad occuparsi della materia sono 4 sostituti su 8. 7 sono invece gli psicologi già avviati dall'azienda sanitaria alla formazione specifica per i casi che saranno chiamati a seguire, fa sapere il direttore generale di ASFO Giuseppe Tonutti, in risposta alle crescenti necessità della magistratura e per colmare una carenza conseguente agli ultimi pensionamenti. Lara Boccalon, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'inverno demografico è ormai il problema dei problemi, anche se troppo poco spesso se ne parla nel dibattito pubblico. Le soluzioni non sono a portata di mano e occorre prepararsi a convivere in uno scenario di continuo calo della popolazione da qui ai prossimi decenni. Per questo Buongiorno Regione, questa settimana affronteremo la questione indagando tutti gli ambiti economico-sociali condizionati dalla decrescita della popolazione. Abbiamo cominciato questa mattina con un quadro generale della situazione. Sentiamo. Dal lavoro alla scuola, dalle pensioni alla sanità fino al welfare e persino l'immobiliare, tutto è sempre più condizionato dal calo demografico. Da anni in Friuli Venezia Giulia, in linea col resto d'Italia, i decessi superano le nascite, spiega il demografo dell'Università di Udine e di Trieste, Alessio Fornasin. In Friuli Venezia Giulia, dopo che aveva una popolazione di 1.200.000 abitanti, sostanzialmente a partire dal secondo dopoguerra fino a pochi anni fa, ha intrapreso un processo che sarà lungo di declino della popolazione, di diminuzione del numero di abitanti. Nel prossimo futuro questo declino si farà ancora più marcato. Le previsioni non sono tutte concordi, naturalmente, ma diciamo che tra una ventina d'anni saremo su 1.100.000, probabilmente di meno. A questa diminuzione si accompagna un invecchiamento della popolazione che è causato anche da un declino della natalità. Di crolli demografici ce ne sono stati anche in passato, anche se raramente su scala così vasta. Per ripopolare l'agro aquileiese, nel 700 l'impero austriaco impiantò nell'area prima un gruppo di prigionieri prussiani e poi una piccola comunità di greci, tutto invano. Oggi invece paesi come la Francia puntano molto sull'immigrazione. Una soluzione anche per noi? L'immigrazione sicuramente è utile, io direi addirittura necessaria. in fasi come quella che stiamo attraversando noi adesso. Però non è una soluzione sostenibile nel periodo più lungo, quindi fra 20 anni, 30 anni le cose rimarranno e si riproporranno esattamente come ora. Perché? Perché le abitudini degli stranieri, degli immigrati, intendo i comportamenti demografici, poi si assomigliano sempre di più ai comportamenti delle popolazioni che abitano sui diversi territori. Quindi gli stranieri, le seconde generazioni, faranno lo stesso numero di figli che fanno gli italiani oggi. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. È entrato nella fase conclusiva il processo di formalizzazione del contratto di Fiume Iudrio che, a partire dall'assemblea svoltasi nei giorni scorsi, dovrebbe portare alla firma degli stakeholders entro la primavera. Numerose le criticità che si rilevano attualmente sul fiume, ma anche i potenziali fattori di valorizzazione, sia ambientale sia turistica. A Giassico di Cormons la traversa fluviale e l'imbocco di roggia sull'Iudrio sono da anni rovinati e in buona parte disfatti. Il corso del fiume conseguentemente preme sull'argine destro. Anche la cartellonistica descrittiva è stata in diversi punti inghiottita dalla vegetazione, ma poco distante sono ancora visibili i basamenti del ponte che fino al 1915 univa il Regno d'Italia all'Impero Austro-Ungarico. Le problematiche, le testimonianze e i valori di cui lo Iudrio è portatore sono attualmente allo studio dei soggetti che agiscono per il contratto di fiume. Innanzitutto il Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia come capofila, poi i 17 comuni che vengono attraversati dalle sue acque, dal Colovrat alla confluenza nel Torre. Inoltre l'autorità di bacino e l'associazione Iudrio, promotrice quest'ultima del percorso costitutivo del contratto come strumento di tutela. Sentiamo Elena Gasparin, presidente dell'associazione Iudrio. Il contratto permette di analizzare quindi i punti di forza, i punti di debolezza di tutto il fiume in senso olistico, quindi anche i suoi punti critici, che sono in particolare le aroste, che diventano un serbatoio importante di acqua proprio per la fauna ittica. Come è importante anche la qualità delle acque, cioè avere un ambiente sano per la flora e per la fauna. Sull'aspetto della valorizzazione storico-culturale, ricordiamo ad esempio che in questo tratto abbiamo anche una strada romana. Ma il fiume Iudrio si presta anche ad una valorizzazione attraverso la mobilità sostenibile, attraverso le piste ciclabili, però che non significa cementificazione, significa rispettare proprio il corso naturale del fiume ed intervenire senza andare ad alterare i suoi equilibri. Villanova degli Iudrio, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo al tempo, abbiamo cielo sereno sul Friuli Venezia Giulia, queste le temperature delle 11, a Trieste 7 gradi e 5 decimi, a Pordenone 6, a Gorizia 8 e 5, a Udine 9 e 5. Nell'area montana a Tolmezzo abbiamo 5 gradi, a Tarvisio 2, a Sappada meno 1, a Forni di Sopra 6 gradi positivi, sul Piancavallo 5, sul Monte Lussari 4 gradi positivi, sullo Zoncolan 5 e mezzo, dunque spiccata situazione di inversione termica, grado è a Lignano 6. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi pomeriggio: cielo sereno, zero termico intorno a 2800 metri con inversioni nei bassi strati. La mobilità a Trieste: a dire no alla futura pista ciclabile di Viale d'Annunzio sono proprio i ciclisti. Si è tenuto questa mattina in sesta commissione un confronto sul progetto ormai approvato di realizzare su un marciapiede una corsia mista per pedoni, appunto ciclisti. Tante le critiche, ha acceso il dibattito, ma il comune conferma la bontà del progetto. Raggiungere il centro città da Valmaura in sella ad una bicicletta sarà possibile tra un anno circa. L'appalto da oltre 1 milione di euro per la pista ciclabile bidirezionale lungo un marciapiede di Viale d'Annunzio a Trieste è stato aggiudicato a fine anno, previsti da contratto 329 giorni di lavori. L'avvio del cantiere è ormai imminente, eppure il progetto non piace proprio a chi di questa pista dovrebbe godere, ciclisti in testa. Chiesto da Adesso Trieste un confronto pubblico sul progetto che si è tenuto in sesta commissione sessione consiliare nell'aula del Consiglio Comunale. Secondo l'associazione di ciclisti FIAB Trieste Ulisse, creare una ciclabile sul marciapiede mette in conflitto tutti, ciclisti, pedoni, residenti, commercianti con i loro dehors. La soluzione, secondo FIAB, tra l'altro già prevista nel biciplan approvato dal Consiglio Comunale 2 anni fa, è quella di realizzare 2 corsie monodirezionali su strada, quindi sulla carreggiata, una per ciascun senso di marcia, tracciando linee a terra. Assolutamente no a bike line su strada, è stata la replica dell'assessore alla mobilità Michele Babuder. Sono pericolose, dice. Perplessità però sul progetto del comune anche tra i commercianti. Non è stato chiarito, dicono, se potremo comunque mantenere i nostri tavoli all'esterno, i dehors, nella bella stagione, e neppure come faremo con il carico-scarico della merce. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Nella mattinata di oggi a Gorizia è avvenuta la consegna dei lavori per il secondo lotto degli interventi di restauro conservativo di Villa Luisa. I lavori, a fronte di un investimento di 2,5 milioni di euro, riguarderanno il consolidamento della struttura dell'intero immobile. Le 2 barchesse e il corpo centrale saranno ultimati entro settembre 2025, salvo imprevisti, come già avvenuto ad esempio per gli interventi del primo lotto, in cui sono emersi elementi storico e culturali inattesi che hanno richiesto studi particolari da parte della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. La coincidenza dei lavori con gli eventi del 2025 diventerà occasione per promuovere il restauro della villa con visite all'interno del cantiere. La tassa di soggiorno introdotta a Muggia per la prima volta nel 2023 ha fatto registrare introiti per quasi 61.000 euro dal 15 luglio al 15 ottobre, fondi che saranno investiti sul territorio secondo le linee che saranno decise in un prossimo confronto con le categorie interessate, Federalberghi in primis, lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale. La tassa ha permesso di poter contare su una panoramica completa dei turisti che si fermano in città, rilevando il numero dei pernottamenti medi, la tipologia di struttura ricettiva scelta e il numero delle stesse strutture operative. Per il 2024 la previsione di incasso è di aumento, considerando che la tassa sarà applicata dal 15 marzo al 15 ottobre. Riguardo al 2023, gli ospiti sono stati oltre 13.500 per quasi 39.000 pernottamenti. Complessivi. Quasi il 40% dei pernottamenti si trascorre negli alberghi. Il campeggio San Bartolomeo a Lazzaretto ha il più alto numero di pernottamenti come singola struttura, oltre il 20% del totale, quindi quasi 8.000. Torniamo a Gorizia, dove il Comune ha presentato un progetto di promozione turistica che si inserisce nel quadro delle iniziative in vista di Go 2025. Il mese prossimo si aprirà un calendario di escursioni che valorizza gli itinerari culturali. 26 escursioni da febbraio a luglio, 3 tipologie di visite con itinerari su percorsi culturali, naturalistici e produttivi. È il progetto di promozione turistica del territorio di Gorizia dal titolo Crocevie d'Europa, crocevie al plurale, appunto licenza poetica, per sottolineare la molteplicità degli intrecci nel territorio della città, un programma realizzato in vista di Go 2025. Le escursioni, tutte gratuite e in più lingue, ma per partecipare serve la prenotazione, puntano a promuovere il territorio in chiave transfrontaliera. Si comincia già questo sabato 3 febbraio con il percorso a stazioni dal titolo Dall'alto, da lontano, corale di confine, che accompagnerà i visitatori con musiche e canzoni da Gorizia fino al monastero di Castagnevizza. La visita sarà in italiano e in sloveno e si può prenotare già da oggi. L'11 invece toccherà il percorso delle panchine arancioni di Oslavia, fatto di 7 chilometri tra Italia e Slovenia, mentre il 18 parte il primo degli itinerari guidati su progetti, approfondendo teologici e culturali, visitando i luoghi e i segni della storia religiosa della città, dall'ebraismo alla riforma protestante. Nei percorsi saranno compresi anche destinazioni insolite come il quartiere operaio di Stracis, il parco Basaglia, il Monte Calvario e il Monte Sabotino, e ci saranno anche visite ad aziende che producono lavanda e miele. Come spiega il sindaco di Gorizia Ziberna, con questa iniziativa promuoviamo quello che siamo noi, con l'aspettativa di costituire un richiamo per i turisti, ma anche per far conoscere meglio la città ai suoi abitanti. Gorizia, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti culturali di oggi: a Ronchi dei Legionari in biblioteca comunale per il ciclo Noi e la storia, la docente Marina Bressan, germanista e traduttrice, terrà la conferenza dal titolo Rodolfo d'Asburgo, suicidio o omicidio, alle 18:30. La sottocommissione pace della pastorale sociale della diocesi di Concordia Pordenone ha organizzato l'incontro intitolato Che bomba quel film, per ricordare l'entrata in vigore nel gennaio 2021 del trattato per la proibizione delle armi nucleari, un passo importante per l'umanità e per il territorio diocesano che conta gli ordigni atomici della base aerea di Aviano. Per l'occasione, nell'anno del film Oppenheimer, incentrato sulla storia del padre della bomba atomica, è stato invitato il consigliere nazionale di Azione Cattolica Andrea Micheli. Parteciperanno rappresentanti locali delle associazioni cattoliche che hanno sottoscritto l'appello per una Repubblica libera dalla guerra e dalle armi nucleari. Appuntamento a Pordenone nella sala conferenze di Casa Madonna Pellegrina alle 20:30. Nella pagina dello sport, ampio spazio al basket con la A2 e le tre sconfitte delle formazioni regionali che il calendario ieri metteva di fronte ad altrettante squadre dell'Emilia-Romagna. La partita più attesa per le zone alte della classifica era quella del Carnera, dove l'APU Old Wild West Udine è stata sconfitta da Forlì 73-61. L'imbattibilità tra le mura amiche non c'è più, sgretolata in una domenica dove si commemora il padre del presidente Pedone, recentemente scomparso. L'APU perde al Carnera contro Forlì in un match che è uno scricchiolio per le ambizioni. Per la prima volta, infatti, manca la solidità mentale di rimanere nella partita quando le cose non funzionano, soprattutto in attacco, che è quello che serve ai playoff. Eppure il match era iniziato benissimo, con la solita folata nel primo quarto e la capacità di Clark di creare senza esagerare. I romagnoli, però, giustizieri dei bianconeri l'anno scorso, non si scompongono, segnano due triple di fila per riavvicinarsi, in difesa occupano spazio e poi sfruttano l'effetto goccia cinese, una alla volta, per scavare in profondità nelle incertezze udinesi. In un secondo periodo brutto di contenuti tecnici, i romagnoli ci sguazzano con la fisicità degli esterni, approfittando della giornata stortissima di Alibegovic, Caroti e Monaldi. A contatto al riposo, la squadra di Martino ottiene il primo vantaggio con l'ottimo Zampini, 46-48. Udine, che non segna più, subisce a rimbalzo dall'ex Pascolo, scivolando fino a meno 9 e trovandosi per la prima volta nella spiacevole situazione di non avere un piano C quando i primi due non hanno funzionato. Nell'ultimo periodo Forlì trova inoltre un Allen capace di far canestro in ogni modo, ben spalleggiato dall'altro americano Johnson. Monaldi dà speranza con il canestro del 61-69, ma ancora Allen la spegne subito. La sconfitta 61-73 significa addio alla Final Four di Coppa Italia e al secondo posto, con un calendario in teoria peggiore per la seconda fase. Udine, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora per l'APU sentiamo anche la voce di coach Vertemati, che non si nasconde: è stato un infortunio di percorso, peccato che sia capitato proprio nella gara in cui tenevamo di più dopo il derby. Abbiamo perso ritmo offensivamente, poi la partita è andata nel punto a punto fino a che poi alla fine, cioè, piano piano, lentamente scappata di mano, anche per merito di alcune giocate di vera bravura da parte di Allen e di Xavier Johnson, che ha fatto canestri difficili dal palleggio. Ma al di là di quello, noi la partita non l'abbiamo controllata e, ripeto, abbiamo attaccato male. Sono cose che in una stagione purtroppo possono capitare. Siamo dispiaciuti anche per aver fatto questa prestazione di fronte al nostro presidente in un momento così complicato. Avremmo voluto regalargli una gioia, non siamo stati capaci, ne sentiamo il peso. Trieste rimane nel tunnel della crisi, battuta davanti al proprio pubblico che ha fischiato i biancorossi da una disciplinata Rimini per 90-76. Cividale invece non ha nulla da rimproverarsi per la sconfitta subita sul campo della Fortitudo con il punteggio di 90-77. Senza Ruzier, senza Reyes, senza idee. La caduta però stavolta fa più rumore. Trieste cade fragorosamente in casa, fischiata per oltre 30 minuti dal suo pubblico, esasperato da un gioco improvvisato e inefficiente. Un Luna Park dove ci sono solo due schemi offensivi che finiscono male allo stesso modo. Dei primi 25 tiri, 17 sono da 3 e di questi ne entra solo uno. Ai tiri liberi va pure peggio. Logico essere sotto di quasi 20 punti in meno di un tempo contro Rimini, che in panchina ha Dell'Agnello e in campo Marco e Tomassini, gente che conosce la categoria e non frasi motivazionali da postare sui social. I romagnoli speculano in difesa e martellano in attacco, approfittando delle carenze biancorosse, su tutte l'assenza di atletismo e dinamismo. Con un po' di triple di fila casuali, Trieste la riaprirebbe pure, tornando a meno 10 un paio di volte. A condannarla però sono di nuovo le scelte della panchina. Il cambio sistematico sui blocchi regala a Johnson 6 punti consecutivi quando c'era ancora margine per recuperare. 76-90 al finale, terza sconfitta consecutiva da calendario e la prossima, l'ultima, è a Forlì, dove nessuno ha ancora vinto. Fa quello che può invece Cividale in casa della Fortitudo capolista. Senza Lamb, ottimamente sostituito dal partente Col, i ducali vanno sotto non riuscendo a pareggiare la fisicità dei bolognesi. Aradori, Freeman e anche Ogden hanno vita relativamente facile e non basta un buon dell'Agnello per tenere la partita in equilibrio. Troppi 49 punti concessi nella prima metà, pur con un attacco che con rotta riesce a tornare a meno 5 nel secondo periodo. Con Aradori nella ripresa, il vantaggio dei padroni di casa arriva a quota 17 e poi addirittura a 23. Troppi per sperare in un blitz finale, dove comunque qualche punto viene rosicchiato, 90-77 con due triple di Isotta. In classifica vincono dietro, ma i playoff rimangono raggiungibili. Ultima sfida della prima fase al Palagestecco contro la diretta rivale 100. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora i commenti, cominciamo da Trieste, parla Giovanni Vildera, tra i migliori in campo nella sconfitta con Rimini. Dobbiamo fare mea culpa, dice, non ci possono giustificare le assenze importanti. Ci mancavano due giocatori che sono i nostri 2000 giocatori, insomma non è che ci nascondiamo e quindi sicuramente non, insomma dobbiamo essere consapevoli di questo, però allo stesso tempo non abbiamo messo quell'energia, quello che dovevamo mettere, quindi dobbiamo fare mea culpa tutti quanti individualmente di squadra e capire come tornare a essere la squadra che ha fatto molte vittorie in fila, che riusciva ogni partita a trovare protagonisti nuovi. E Forlì sarà una partita ancora più tosta, oltre che saremo in trasferta anche contro una squadra che punta a far bene, e quindi dovremo essere molto più intensi dall'inizio alla fine, molto più determinati, soprattutto dal punto di vista difensivo. E ora passiamo a Cividale, che ieri a Bologna ha avuto un sostegno appassionato dai propri tifosi. È la nostra arma in più, ha detto il presidente Davide Mikalic. Lotteremo fino alla fine per uscire dalle sabbie mobili della classifica. Noi non usciamo ridimensionati, dispiace moltissimo per qualche risultato degli altri campi che ci obbliga ancora di più a rimboccarci le maniche, ma questo è il bello del basket, è il bello di questo campionato. Campionato in cui non esistono partite determinate al principio, quindi ogni settimana fa storia a sé. E noi adesso ci prepariamo per bene la prossima e l'ultima partita della fase regolare, poi ci sarà la fase orologio, ma la squadra c'è e con una tifoseria del genere noi non possiamo immaginare neanche lontanamente di non tirarci fuori da questa situazione di sabbie mobili, anche se, ripeto, sarà durissima fino alla fine perché è campionato di alto livello e nessuno regala nulla. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Mauro Cumin e Tommaso Vinoni. Prossima edizione alle 15, grazie per il vostro ascolto e buona giornata ancora. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.